Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Benvenuti cari amici alla seconda puntata del Pinsimonio, la nuova rubrica di Radio Città Fujiko che vi propone 5 parole prese direttamente dal vocabolario Treccani. Le parole che andiamo ad analizzare oggi sono parole comunemente usate nella cronaca, soprattutto politica, ma di cui secondo me non è superfluo un approfondimento. Oggi andremo ad analizzare le parole partito, populismo, propaganda, consenso e demagogia. Cominciamo con partito, che è innanzitutto il participio passato del verbo partire, che è un verbo che ha due significati. Il primo indica il dividere in due o più parti. Il secondo invece indica l'allontanarsi per un tempo più o meno lungo da un luogo per recarsi in un altro, quindi partire come dividere o partire come allontanarsi. Da qui il termine partito indica innanzitutto l'essere diviso, oppure indica ciascuna delle soluzioni che si possono adottare nel caso di una scelta, o ciascuno dei mezzi di cui ci si può servire per raggiungere uno scopo, per superare una difficoltà o per abbattere un ostacolo. Nel linguaggio politico è un'associazione volontaria di un numero più o meno grande di cittadini con una propria struttura organizzativa costituita sulla base di una comune ideologia politico-sociale e avente come obiettivo la realizzazione di un determinato programma attraverso la partecipazione e la direzione del potere o attraverso la pressione e l'influenza nel governo e nello Stato. Con significato più generico è un gruppo o uno schieramento anche privo di una struttura organizzata che ha un determinato orientamento nei riguardi di problemi specifici a cui aderiscono quanti aspirano soprattutto a procurarsi un egoistico stato di benessere materiale. Questo è ciò che viene definito come partito. E la seconda parola invece è una parola molto usata, forse abusata negli ultimi anni, che è populismo, che ha una singolare origine, perché il populismo è stato un movimento culturale e politico sviluppatosi in Russia alla fine dell'Ottocento, che si proponeva di raggiungere, attraverso l'attività di propaganda e proselitismo svolta dagli intellettuali presso il popolo e con una diretta azione rivoluzionaria, un miglioramento delle condizioni di vita delle classi diseredate, specialmente dei contadini e dei servi della gleba, e la realizzazione di una specie di socialismo rurale basato sulla comunità rurale russa, in antitesi alla società industriale occidentale. Quindi il populismo non è niente di nuovo, ma per estensione è diventato un atteggiamento ideologico che, sulla base di principi e programmi genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori totalmente positivi. O con un significato più recente, è una forma di prassi politica tipica di paesi in via di rapido sviluppo dall'economia agricola a quella industriale, caratterizzata da un rapporto diretto tra un capo carismatico e le masse popolari, con il consenso dei ceti borghesi e capitalistici che possono così agevolmente controllare e far progredire i processi di industrializzazione. In ambito artistico e letterario è invece la rappresentazione idealizzata del popolo, considerato come modello etico e sociale. Questo è il populismo. Continuiamo con propaganda, che è un termine tratto dalla denominazione pontificia De Propaganda Fide, che significa della propagazione della fede. Propaganda è propriamente il gerundivo femminile del verbo propagare. Allora, propaganda è l'azione che tende a influire sull'opinione pubblica, orientandola verso determinati comportamenti collettivi, ed è anche l'insieme dei mezzi con cui viene svolta. Per estensione, complesso di notizie destituite di ogni fondamento, diffuse ad arte e per fini particolari. E qual è lo scopo della propaganda? La creazione del consenso, che è innanzitutto una conformità di voleri. Consenso in diritto è l'elemento essenziale del negozio giuridico, consistente nell'incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti contrapposti. È sinonimo perciò di accordo. Altrimenti è il consentire a che un atto si compia, cioè permesso o approvazione, dare, negare, chiedere, ottenere il consenso. O giudizio favorevole, calda approvazione, l'iniziativa ha incontrato unanime consenso. Nel linguaggio politico è l'appoggio, il favore espresso da gruppi e strati sociali alla politica di chi è al potere. E da qui andiamo all'ultima parola, che è demagogia, che è genericamente l'arte di guidare il popolo. In seguito, già presso gli antichi greci, è la pratica politica tendente a ottenere il consenso delle masse lusingando le loro aspirazioni, specialmente economiche, con promesse difficilmente realizzabili. O anche il regime politico basato su tale metodo, che rappresenta la forma corrotta della democrazia o una simulazione di questa. Questo è ciò che viene definito dal Treccani come demagogia. Io così concludo la seconda puntata del Pinsimonio, spero di aver suscitato in voi un po' di curiosità e di avervi chiarito